Sometimes you gotta be bold. Just rock the world. Booyah! La la la la la la la la la la. Power, 우린 관심도